Rassegna Stampa Europa. Buongiorno a tutti da Giulia Crivelli. Settimana scorsa non ci siamo sentiti, c'è stato Gigi, sono contenta però di tornare questa settimana con la rassegna stampa europea. E cominciamo da un articolo che è uscito proprio ieri sull'International Herald Tribune, che è l'edizione, diciamo, europea del New York Times. Era in prima pagina, è un articolo del corrispondente da Bruxelles, James Kantner, ed è intitolato "Nonostante le pressioni americane per aumentare il libero scambio con l'Europa, l'Europa ha deciso di proteggere i suoi film". L'articolo si riferisce a una decisione del Parlamento europeo che giovedì, 2 giorni fa, ha passato questa resolution che aumenta, sì, e semplifica il libero scambio tra l'Europa e gli Stati Uniti, ma con una clausola fortemente voluta dai francesi, scrive l'International Herald Tribune, che riguarda tutte le aziende audiovisive che restano più protette. Questo è legato, naturalmente, spiega il quotidiano, alla quantità di film che vengono prodotti, per l'appunto, soprattutto in Francia, e che soffrono, come soffrono anche in altri paesi, della concorrenza dei colossal americani, che spesso hanno budget di marketing e pubblicitari che schiacciano le produzioni locali. E i francesi sono riusciti ad avere questa piccola clausola che protegge i film europei, e quindi in particolare sappiamo quelli francesi. Sempre ieri è uscito invece su Financial Times, ma vi leggerò poi anche un articolo che è uscito su un quotidiano cipriota, che riguarda invece la questione dell'olio d'oliva. Come forse avrete visto, anche perché ne hanno parlato anche i nostri giornali, c'era stata una proposta della Commissione europea, e in particolare del commissario europeo all'agricoltura Dacian Ciolos, un greco, per obbligare i ristoranti a mettere in tavola sempre e soltanto bottiglie nuove di olio, cioè bandire le oliere. Questa era una proposta abbastanza difficile da attuare per i ristoranti, perché naturalmente nessuno di noi, forse una tavolata intera, però in generale il tavolo medio di un ristorante non consuma una bottiglia intera di olio, e quindi questo avrebbe voluto dire un grande spreco. Ora questo è stato fatto un passo indietro e questa regola non verrà più introdotta, e quindi scrive questo quotidiano cipriota, che si chiama, che ha un sito internet in inglese che potete quindi anche consultare, che è www.filenews.com. Il nome in realtà del quotidiano cipriota è Filelefeteros, però appunto, come vi dico, il portale in inglese, che prende spunto da questa vicenda dell'olio d'oliva, con il grande annuncio del commissario all'agricoltura e poi il clamoroso passo indietro, perché era stata data come una misura certa, per dire che la Commissione europea e le istituzioni europee in generale, veramente in momenti in cui forse dovrebbero occuparsi di altre cose, sono assorbite da questioni secondarie, secondo il quotidiano cipriota, come quella dell'olio d'oliva, e soprattutto si perdono nella burocrazia. E sul tema della democrazia, del lavoro e della crescita dell'Europa, vi segnalo sempre dall'International Herald Tribune di ieri, che quindi trovate online al sito, all'indirizzo www.iht.com, questo intervento di Gerhard Schröder, che sapete è l'ex cancelliere tedesco, tra l'altro al quale è un po' sparito, come fanno spesso i politici all'estero che non sono come i nostri, cioè se rinunciano a un incarico poi appunto si ritirano e fanno altre cose, però il suo ruolo nella legislazione sul lavoro è stato importantissimo, perché introdusse con molta difficoltà all'epoca quelle norme che cambiarono profondamente il mercato del lavoro tedesco, di cui adesso, tra l'altro soprattutto negli anni scorsi, si sono visti gli effetti. Quindi Gerhard Schröder ha titolo per parlare di lavoro, e così pure Jacques Delors, ex presidente della Commissione europea, e fanno appunto questo intervento dove cercano di riportare un po' di buon senso sulle discussioni di questi giorni. Dicono: non c'è o crescita o austerità, cioè o la posizione di Angela Merkel oppure la posizione dei paesi che vorrebbero, come l'Italia, dei vincoli meno stringenti ai vari patti di stabilità. Cioè bisogna trovare una via di mezzo, perché sennò cresceranno le tensioni sociali. E a questo punto, e su questo argomento, cioè delle tensioni sociali e sul rischio di estremismi, vi segnalo un articolo invece su un portale greco, anche in questo caso una parte è in inglese, l'indirizzo www.protagon.gr, e in questo portale si esamina il rischio della nascita di una della crescita, perché la nascita c'è già stata, di partiti di estrema destra. Il portale usa la parola proprio fascista, quindi di partiti fascisti che quindi facciano leva sul disagio sociale, come abbiamo visto succedere molte volte nella storia. È inutile appunto andare indietro anche alle vicende che precedettero la Seconda Guerra Mondiale in Germania. In questo caso il portale greco parla del partito neofascista che si chiama Golden Dawn e che ha un tasso di approvazione, pare, non sappiamo cosa succederebbe se si andasse a elezione, del 10%, che è un tasso altissimo. Ma torniamo allora a questo punto alla questione del lavoro, perché poi le tensioni sociali vengono spesso, a parte magari chi comunque, i piccoli infiltrati nelle proteste che magari ci sarebbero comunque ovunque, in realtà la protesta e il disagio si basa soprattutto sulla disoccupazione. E c'è stato un reportage stupendo sulla Zeit, Die Zeit, che è un settimanale tedesco che però, se lo vedete in edicola, sembra un po' un quotidiano, al formato tanto broadsheet amplissimo. È un settimanale tedesco diretto da una persona che è per metà italiana, e qui c'è un reportage bellissimo di Gero von Randow, che spiega come appunto nell'Unione Europea cresca in modo drammatico la disoccupazione giovanile, con gravi conseguenze economiche e sociali. Il dato è naturalmente precisato, cioè si intende per giovani disoccupati coloro che non hanno un lavoro e neppure studiano, perché naturalmente tra i giovani ci sono anche molti tecnicamente disoccupati ma che però vanno all'università. In questo caso invece sono proprio giovani che né studiano né lavorano. In molti paesi ci sono alcune buone idee per affrontare il problema, scrive la Zeit, ma spesso mancano la volontà politica e i soldi. Tra l'altro ci sono anche alcuni modelli come quello austriaco che hanno funzionato e che Bruxelles, scrive in un altro articolo la Zeit, potrebbe anche prendere in considerazione. Il problema è che sulle politiche del lavoro la Commissione Europea, il Parlamento Europeo, le istituzioni europee in generale non hanno autorità, perché l'autorità spetta ancora ai singoli governi, e quindi il problema è naturalmente, come abbiamo visto anche per tantissimi altri temi, che poi le istituzioni europee sono quasi impotenti. Vi segnalo un ultimissimo articolo dal Guardian, che parla della questione dell'evento tremendo del 23 aprile, in cui in Bangladesh, in una fabbrica di abbigliamento, hanno perso la vita probabilmente circa 2.000 persone, 1.200 sono i cadaveri recuperati fino adesso. Il Guardian sottolinea come sia necessario in realtà probabilmente un intervento, magari non stringente, però almeno una presa di posizione delle istituzioni europee su queste pratiche di appaltare ad aziende di cui si sa poco in Bangladesh, ma probabilmente anche in altri paesi, che non rispettano assolutamente gli standard che noi europei diamo per scontati. Le aziende che appaltano non sono del tutto colpevoli, scrive il Guardian, perché a volte sottoscrivono degli accordi che poi sono le aziende del Bangladesh o di altri paesi a non rispettare. Sta di fatto però che bisognerebbe appunto cercare di affrontare il problema. C'è tempo per un'ultimissima segnalazione, visto che abbiamo parlato di come dovremmo tutti cercare di avere delle regole condivise. C'è un articolo da PLOS Biology, che è una rivista scientifica americana citata da Internazionale, e si intitola l'articolo La grande famiglia europea, e parla di come quasi tutte le persone oggi in Europa abbiano antenati comuni vissuti intorno all'anno 1000. Analizzando il DNA di 2257 europei, l'equipe dei genetisti di un'università americana hanno individuato queste somiglianze nel codice genetico risalenti a 3000 anni fa. Quindi quando si dice che l'Unione Europea è una forzatura, che in realtà noi non siamo pronti né adatti a un'unione politica, forse invece la genetica dice che in realtà saremmo pronti e si tratterebbe soltanto di buona volontà e di apertura l'uno verso l'altro. Non c'è tempo per altre segnalazioni, ci risentiamo tra 2 settimane, settimana prossima ci sarà Gigi Donelli. Un buon fine settimana da Giulia Crivelli. Rassegna Stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.